Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. YouTube Social Network. Rido e sorrido perché questa settimana per RadioTube Social Network abbiamo un co-conduttore indisciplinato, il nostro co-conduttore d'eccezione che sta giocando con i tastini. Direte, ma come? Sono tornati i co-conduttori in studio? Ma in realtà è perché comunque abbiamo la distanza di sicurezza e comunque lavoriamo in due scrivanie vicine. Quindi... Eccoci qua! Oh, Enrico Paglianini! Buongiorno. Beh, devo dire Ciao. Che io e te in questi mesi abbiamo sempre lavorato a distanza di sicurezza ma insieme, quindi sì. Che, ecco. Dunque, adesso spengo il telefono perché non sono arrivato con tanto anticipo perché ho guardato fino allo scusa, devo chiedere scusa, non ho seguito la prima parte, se non a spizzichi e bocconi. C'è il podcast, c'è l'app di Radio 24, la puoi riascoltare. No, qualcosa ho ascoltato, ma ho guardato le prove di Formula 1 con mia grande delusione perché le Ferrari sono andate malissimo e ho acceso la radio alla fine e parlavate di Hamilton. Allora dico, ma sono perseguitato da Hamilton. No, è il mio musico. Dopo ho capito. No, ma invece lo devi guardare perché secondo me a te piace molto. Perché è un musical americano fatto strabene. Perché non lo sapevo. È un musical fatto per la TV o no, musical? No, è un musical fatto in teatro, proprio da Broadway, che è stato messo in streaming su Disney Plus. Anche perché a teatro non ci si può andare, quindi. Esatto. Poi soprattutto a Broadway non è che uno possa prendere. Devo dirti che è anche una bella idea, secondo me. Perché ci sarebbero tanti spettacoli teatrali che uno vorrebbe vedere e magari non può recarsi fisicamente in un teatro. Io pagherei per vedere degli spettacoli teatrali in streaming. Perché ci sono dei musical che sono straordinari, bellissimi. Quindi... Non tutti lo sanno e probabilmente neanche Edoardo Lavezzari in redazione e Carmelo Lauricella in regia, che Enrico Pagliarini è esperto anche di musical. Ma allora, perché perché un mio amico, un mio caro amico, è un direttore d'orchestra di grandi musical a Londra e quindi mi ha un po' raccontato, alcuni li ho anche visti e per questo motivo, non perché... Però insomma è una cosa curiosa, tutti ti occupi di tecnologia, però questo cotè appassionato di musical in pochi... Lo sapevate voi in regia? No, non lo sapevano. Per non parlare di tutta la tecnologia che c'è dietro ai musical, che ormai sono gestiti da software, che sono, come dire, programmati da umani, però tutto la sincronia tra le luci, canta, le scene... Ormai è tutto software, bellissimo, ci sono dei software fantastici che fanno tutto. Allora dai, cominciamo con i video della settimana e ovviamente il personaggio della settimana lo ricordiamo con questo video che è circolato su tutte le prime pagine dei quotidiani online. Ho avuto il compito triste e amaro questa mattina di dare l'annuncio attraverso le agenzie della morte di Ennio Morricone, di cui sono stato illegale e a cui sono stato legato da un affetto e ammirazione notevoli. Sono stato autorizzato a leggervi il necrologio che Ennio ha scritto con le sue mani. Io, Ennio Morricone, sono morto. Allora, lo abbiamo letto e abbiamo visto questo video su tutti i giornali online, condiviso su tutti i social network. L'emozione è stata tanta. Tra l'altro io provo del grandissimo affetto anche per l'avvocato Assuma, al quale è toccato questo compito così difficile. Lo abbraccio a distanza, avvocato Assuma, una persona splendida e un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Enrico, grande emozione per la scomparsa di Ennio Morricone. In rete. Grande emozione, devo dire anche grande stupore, perché io non, in effetti è morto per le conseguenze di una caduta. Probabilmente se non fosse caduto sarebbe vissuto fino a 100 anni. Io mi sono un po' stupito e comunque dopo aver ascoltato questo audio il giorno in cui è stato trasmesso ho detto anche qui l'originalità e il genio, l'eleganza, cioè, quanti, certo, l'eleganza. Quanti però, diciamo, tra le persone che conosciamo pensa di scrivere una cosa del genere? No, è proprio una cosa geniale, che distingue un'intelligenza e una sensibilità superiore. E poi ancora una volta questo ringraziamento a sua moglie, un amore pazzesco, veramente una cosa straordinaria. E mi è piaciuto che sia circolata ancora sui social network la foto di Ennio Morricone e della moglie Maria che tornavano da Los Angeles, quella foto scattata all'aeroporto di loro due con la borsettina, che sembravano due signori anziani di ritorno da un viaggetto, e questa e la didascalia era: questi signori in borsa hanno l'Oscar e voi ve la tirate per due like. È vero. Esattamente. Semplicità del genio. Sì. Allora adesso ti faccio sentire un altro audio che è poco esemplificativo, però ti chiedo cosa pensi di quello che è successo. Ecco qua. Allora Enrico, siamo su un elicottero e stiamo guardando quello che è successo ieri a Venezia. Quando io ho ricevuto la segnalazione del nostro amico Jacopo Giliberto, collega del Sole 24 Ore, che è veneziano, venezianissimo, che ha detto domani vado a vedere che mettono in funzione il MOSE, io ero un po'... Eri un po' emozionata? Sì. Perché dopo 17 anni. Ho detto, ma davvero? Allora, sul MOSE e sul, visto che parliamo di social network e di cose che girano sui social o in generale su internet, sai che cosa mi ha stupito? Che molti video facessero vedere alcuni pezzetti del MOSE, perché prima che tutti e 78 le paratie del MOSE fossero aperte, o meglio sollevate, ci è voluto un po' di tempo. E molti video non facevano vedere tutte e 78 le paratie insieme aperte. La notizia invece era quella. Certo. Ho dovuto cercare un po' prima di trovare un video che ne facesse vedere tutte e 78. E invece c'erano quelle che facevano vedere un pezzetto, una che saliva, Conte che parlava, che dice ma chi se ne frega di Conte che parla, e che io voglio vedere il MOSE allora, aperto. Sì, perché no? Pagliarini dice ma perché io voglio vedere il uomo di tecnologia vuole vedere... Vuoi andare al punto, no? E questo un po' mi ha stupito e la dice lunga a volte sulla capacità di immedesimarsi nel lettore, ascoltatore, telespettatore di chi fa informazione online. Non quelli della radio. No, quelli della radio direi che sono bravissimi. Direi che, ma lo dico senza disinteressata e neutrale, quelli della radio sono bravissimi. No, cioè effettivamente la difficoltà di anche incontrare di mettere d'accordo magari l'interesse del pubblico ampio, di quelli che non ne sanno nulla e cliccano sul titolo un po' clickbait, un po', e invece una persona che ne capisce dice sì, vabbè, ma fatemi vedere davvero, ecco. Sì, sì. Comunque, è un passo in avanti verso un'opera che è discussa, però oggi c'è, dobbiamo fare in modo che funzioni fino in fondo, non entrando nelle polemiche e ricordando, questo hai fatto bene a ricordare Jacopo Giliberto, perché Jacopo Giliberto ha partecipato, ha seguito per tanti anni l'evoluzione del MOSE, ha fatto un bellissimo reportage raccontando sia quello che è successo ma facendo anche un po' di contesto. E quindi vi invitiamo a leggerlo sul Sole 24 Ore online e anche sul Sole 24 Ore, quello tradizionale, sia in versione digitale sia in versione cartacea. C'è ancora la carta, vive, lotta con noi e funziona molto bene, ho visto gli ultimi risultati. Adesso ti faccio sentire qualcosa che non so se hai già sentito, ma è il video numero uno nelle tendenze di YouTube. Ah però. Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata, vai con la hit. Yo, baby K! Finestre nella chat, coi sogni dei pascià. Lo chiederò all'estate, non fare la stupida. Se la felicità è un bicchiere a metà. Stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app. Non vado sotto, vado un top. Prima vai e poi è stop. Allora, caro Enrico, questo pezzo che a me piace tantissimo, mi diverte da morire, si intitola Non mi basta più ed è di Baby K, special guest Chiara Ferragni. Questo non l'avevo mai sentito. È appena uscito, giorni fa, 2,7 milioni di visualizzazioni. Porca vacca. Ecco, allora il pezzo, io confesso, a me diverte tantissimo, lo trovo super carino, è un pezzo di quelli, no, lievi d'estate, non è che sì, stiamo parlando di... come i chewing gum. Certo, lo metti in bocca, ti piace un sacco, però dopo 5 minuti durerà quest'estate. Speriamo di avere dei bei ricordi da ricordare. Che ci siano anche quelli che fanno i pezzi per l'estate. Ma certo, e questo pezzo io lo trovo veramente carino, me lo sono ascoltato un sacco di volte stamattina, è divertente. Ma sai perché ti faccio te lo segnalo? Perché è un pezzo con un video con lo sponsor dentro, col product placement. La marca è anche citata nel testo con una rima, una nota marca di prodotti per capelli di cui Chiara Ferragni è testimonial. Ok, quindi mal che gli vada, cioè se il brano non fa successo non mi hanno messo da parte qualcosa con lo sponsor, no? Ecco, questa cosa del product placement nei video musicali è interessante. In America c'è già da un sacco di tempo. In Italia, ad esempio, Fedez l'aveva già fatto. Di famiglia sono avanti. I Ferragnez sono avanti. Ne parlavo prima, loro sono troppo avanti. Devo dire che un po'. Lo scrivo stamattina su Twitter, un po' fa l'effetto carosello. Si capisce? Si capisce subito, anche senza vedere. E la prima scena è lei che è Baby K che prende l'aereo e trascina un trolley, e sul trolley c'è un beauty case trasparente con dentro i prodotti. Certo, è un po' più complicato farlo per la radio o per Spotify, ovviamente, però il primo che almeno a mia memoria, a parte che non so se fosse proprio un vero product placement, però Vasco Rossi che citava la Coca-Cola. Non era un product placement perché era troppo presto, perché sono passati troppi anni, però adesso non invece... Non so se ne esistono dei product placement di questo genere nel testo della canzone. Nel testo della canzone, secondo me, se ci sono non li hanno ancora dichiarati, ma arriveranno. In questo pezzo effettivamente c'è. Lo sentirete in una rima, c'è il nome del prodotto. Quando le cose sono trasparenti e non sono illegali, va benissimo. Va benissimo, devo dire che appunto il pezzo è davvero godibile. Ci divertiremo a ballarlo. Niente più, non vi scandalizzate. È un pezzo veramente molto carino. Con un po' di ritardo diamo la linea alla viabilità e poi parleremo di un fenomeno un po' inquietante tra poco. Ah, che mal di schiena! Guarda che se pesti una cipolla mentre fai un balletto con la bocca aperta ti passa. Oh, va, non ci crede nessuno a queste cose. Ma che è sta puzza? Mima, che stai facendo? Non ti capisco! L'ho letto su internet, pare che funzioni per il mal di schiena. Radio Tube Social Network. E prima della pausa abbiamo ascoltato un pezzettino di un video che è sempre nelle tendenze di YouTube, che è differenze tra vita vera e vita online dei Nirkyop. Io sono pazza dei Nirkyop, andatelo a vedere perché è divertentissimo, e loro secondo me sono tra i creator italiani più divertenti, che sono tra i pochi che sono riusciti a fare delle cose divertenti anche nella quarantena, che non è stato facile per gli YouTuber, Enrico, Verissimo. C'erano cose assurde, poi chiusi in casa, effettivamente non facile per un creator fare delle cose chiuso in casa da solo, magari senza una squadra, se sono dei gruppi, insomma. Però loro sono stati bravissimi, ce ne ascolteremo degli altri pezzettini, i Nirkyop sono veramente fantastici. Ma vorrei parlare di un fenomeno del quale si comincia un po' a parlare, si parlerà sempre più spesso in questo periodo, e vorrei introdurlo con un pezzettino di un video che ha già un sacco di visualizzazioni, 116.669 in due giorni dal canale L'Inspiegabile. Nelle ultime settimane la mia casella di posta elettronica si è letteralmente riempita di mail con una richiesta, quella di parlare di Jonathan Galindo. Sembra proprio che questo inquietante personaggio sia arrivato anche in Italia. Ma dando un'occhiata su altri canali YouTube e leggendo notizie sparse in rete, ho potuto notare che esiste una gran confusione in merito a chi sia davvero, ma soprattutto alla sua origine. Sapete bene che mi piace investigare a fondo i temi che tratto, quindi in questo video vi racconterò tutto quello che c'è da sapere su di lui e quello che nessuno fino a questo momento vi ha raccontato. Ecco quindi Jonathan Galindo, quello che non vi hanno mai detto. E poi c'è anche questo video di Gianmarco Zagato, 811.800 visualizzazioni, numero 8 nelle tendenze italiane, eccolo qua. Io sono Gianmarco e per il quarto anno di fila torno qui davanti alla mia telecamera d'estate per parlare del fenomeno del momento, Jonathan Galindo. dopo la Momo Challenge, dopo la Blue Whale Challenge, dopo Samara Challenge, ora abbiamo Jonathan Galindo. Questo tizio con la faccia di Pippo sotto acidi, dopo che ha passato un anno in clinica di riabilitazione, sarebbe la persona che dobbiamo evitare quest'anno. La figura che sta spargendo il panico in tutto quanto Sud America, in Spagna, e a poco sta arrivando anche da noi in Italia. Le notizie sono ovunque. Se non avete mai sentito parlare è perché è proprio nuova questa notizia. È degli ultimi giorni, era partito appunto tutto quanto dal Sud America, dove questa figura, che si fa chiamare Jonathan Galindo, e sì, è Pippo della Disney, però che è finito male, contatterebbe le persone attraverso TikTok, attraverso Twitter, attraverso Instagram, attraverso Facebook, e se gli rispondi ai messaggi, si dice che in qualche maniera riesca ad accedere ai tuoi dati privati, e sotto minaccia ti porti a svolgere 50 sfide, e dopo 50 sfide ti porterebbe a compiere l'atto estremo, ossia toglierti la vita. Allora, Jonathan Galindo, ci ricordiamo di Blue Whale, la sfida che anche qui alla fine portava al suicidio, poi la maledizione di Samara e poi quell'inquietante Momo. Siamo sempre, no, in equilibrio tra leggenda metropolitana, perché in realtà non sappiamo davvero se... Molto leggenda metropolitana. Ecco, sì. se sono cose... E il timore che qualcosa possa essere vero e che quindi i ragazzi possano entrare in contatto con qualcosa di pericoloso. Sì, io escludo che ci sia della verità dietro questo Jonathan Galindo e che quindi si possa poi finire in un girone infernale i nostri dati rubati da chi... Penso che possa essere una delle tante truffe online, perché... Tutti i giorni su Facebook, soprattutto su Facebook, ci può arrivare il messaggio o la richiesta di un'amicizia di una persona e dietro si nasconde qualcuno che ci vuole. Più che rubare i dati, ci vuol far fare qualcosa che poi ci può compromettere. Mm. Quindi se uno è un pizzico, non è che ci vuole un genio, ci vuole come un po' di attenzione e cancellare cose di cui non sappiamo molto bene. Cioè se una cosa è palesemente sconosciuta... Non accettate nulla. In questo caso non saprei dire, mi sembra allora, un po'... Allora, il secondo video, che è questo di Gianmarco Zagato, se avete dei dubbi e volete sapere chi c'è dietro, cosa c'è dietro, è molto interessante perché Gianmarco Zagato sì. È andato a cercare e pare abbia trovato il creatore di questo personaggio. Penso misterioso. Che sia verosimile quello che sì, dice. È verosimile. Sì, cioè un personaggio in realtà nato quasi per scherzo molti anni fa, infatti le foto sono piuttosto vecchie, e che adesso è stato utilizzato da una o più persone per creare qualcosa di spaventevole. Poi che la challenge sia vera, e appunto ho molti dubbi. Comunque per spiegare come che o io o te ci trucchiamo in modo molto strano, cominciamo a far girare le nostre foto in rete, poi ci sono anche dei fenomeni veramente inspiegabili, alcune cose si diffondono in maniera virale, non si sa bene per quale motivo, comunque immaginate che io o Marta ci trucchiamo in modo strano con un, lo dicevamo poco fa, una specie di naso di Pluto. E questo Jonathan Pippo che fa paura, però esatto, e questo personaggio poi ci, nel momento in cui lo incontriamo, entriamo in contatto online, ci chiede di fare sfide che a volte possono portare anche a cose o compromettenti o pericolose. Sì, e però, soprattutto siccome questa persona in realtà non esiste, chiunque voglia fare o uno scherzo o una truffa o commettere un illecito può fingersi, può usare queste foto e attrarre persone per ottenere qualcosa. Quindi secondo me, soprattutto adesso che i ragazzini stanno su TikTok, l'unica cosa da sottolineare è che i genitori devono fare un po' attenzione e conoscere i social network su cui si muovono i figli e dare un occhio, perché magari Jonathan Galindo non esiste, anzi sicuramente non esiste la challenge, ma magari qualche malintenzionato che usa le foto di questo Pippo sotto acidi. Corretto, potrebbe esserci. Proprio così. Se siete adulti, diciamo, cancellate o fate finta, passate oltre, perché potete dedicarvi a qualcosa di più interessante. Sì, sì. Però capisco che se uno è un adolescente curioso, magari travolto dagli amici, dagli amichetti, può andare incontro a cose anche spiacevoli. Quindi insomma, cercare sempre di scoprire. E questo video. Sentiamo quello che dice Dobbiamo sentire un altro pezzetto? No, non sentiamo un altro. Okay, no, okay, no, okay. Sai perché? Perché do i compiti a casa io. Ah, perfetto, benissimo. No, è un video piuttosto lungo. Allora, vediamo quanto dura. Ce l'ho qua davanti. Il video dura 10 minuti e 20. Sì. Quindi direi che lo diamo come compito soprattutto ai genitori. Sì. Perché poi succederà che sui giornali la sfida mortale, le cose... cerchiamo di capire bene il fenomeno, i rischi che può comportare, ma anche il fatto che sotto non c'è niente di particolare. È qualcosa che può essere usato per fare danni. Mi sembra una spiegazione perfetta. Ecco. Allora, caro Enrico, siccome hai detto che su internet ci sono anche le cose pericolose, continuerei con questo internet versus vita vera dei Nirchiop e ci troviamo tra poco. Ok. Mamma mia, ti prego, fammi compagnia, che c'è un tipo che non mi piace per niente. Sì, cambio strada, sì, aspetta. Oh, tienimi compagnia, che c'è una tipa che non mi piace proprio. Una richiesta d'amicizia. Profilo privato, zero foto, zero amici, non gli si vede la faccia. Tenebroso, accetta. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro co-conduttore d'eccezione, Enrico Pagliarini. Enrico, tra l'altro stavamo parlando durante la pausa del fatto che ci sono i malintenzionati che cercano di approcciare i ragazzini su internet, ma mica solo i ragazzini però, eh? No, tutti. Ci sono delle industrie vere e proprie, tipicamente in paesi esteri, anche in paesi non, perché uno pensa subito, ah, questi sono dell'est Europa. No. Tunisia, Marocco, cioè Nord Africa, ci sono delle gang criminali, ma diciamo proprio delle industrie criminali che tentano di avvicinarsi a persone online, cioè tentano di chiederti l'amicizia su Facebook e poi ti fanno fare cose compromettenti. E visto che sono molto bravi, visto che fanno quello di mestiere, ci cascano anche gli adulti e questo è un problema. Insomma, cioè il famoso consiglio non accettare caramelle dagli sconosciuti vale anche su internet. Quante belle cose che ci insegnavano da piccoli e che dobbiamo tenere a mente adesso. Quasi tutte le settimane facciamo sentire il governatore, il presidente della Campania De Luca, perché ha sempre delle uscite che a me a volte piacciono, a volte no. Questa settimana ha detto una cosa molto saggia. Dunque, alla domanda quando finirà il calvario, la risposta è quando avremo il vaccino. Intanto vi rinnovo l'appello ad aiutarci con il senso di responsabilità. Mettetevi queste benedette mascherine. Non abbiate timore di apparire démodé. Mettetevele. Io me le metterò anche se andrò a mare. Allora Enrico, sul vaccino non lo so. Bravissimo, se, però giusto. Questa cosa del mettere le mascherine per non sembrare, cioè, démodé, io su questo sono molto d'accordo. Molto corretto, è cosa più utile da fare. Ormai l'abbiamo detto in tanti modi, i medici ce l'hanno spiegato in tutti i modi, il virus si trasmette con quello che noi emettiamo e quindi se lo blocchiamo con la mascherina abbiamo già evitato buona parte della diffusione. E devo dire purtroppo che anche in Lombardia, dove è obbligatorio mettersela all'esterno, io vado poco fuori, però l'altro giorno sono andato a fare un giro e sono andato in farmacia. Beh, poi tu abiti anche in una zona in cui c'è un po' di movida. Sì, poca adesso devo adesso, dire. Perché è tornato il termine movida. Ma sì, perché sono quei termini che in poco spazio. Sì, ci sta nel titolo. Esatto. E, ecco, purtroppo vedo molte persone che non la indossano, oppure che la indossano lasciando fuori il naso. E no, capisco che col caldo non è... è un po' fastidioso, fa un po' fatica, però è veramente molto molto utile. Sul vaccino, allora, ecco. Il vaccino sappiamo che è molto complicato e poi magari fra 6 mesi lo riescono a individuare, forse non fra 6 mesi ma più probabile fra un anno e mezzo. Però diciamo che usciremo da questa emergenza anche nel momento in cui ci sarà una cura molto efficace. Cioè se fra qualche mese sa che prendendo il virus, però può magari ammalandosi anche, può curarsi così come oggi si fa con l'influenza, avremmo trovato sicuramente una buona soluzione. Poi se ci sarà il vaccino ancora meglio. Però ma mettetevi dirai, la mascherina e installate d'accordo. L'app Immuni. Dillo quello che mi hai scritto prima. Perché stavamo discutendo, ma possiamo stare nello stesso studio? È consentito? Ci hanno detto di sì. Il comitato Covid della nostra azienda. Sì, ma soprattutto Pagliarini mi ha scritto: ma tu l'hai installata Immuni? Sì. Allora va bene. Cioè, non che sia. Cioè, non ma è se che... non avessi installato Immuni, Pagliarini non voleva stare nello studio. No, adesso non esageriamo. però nel momento in cui. In questo momento i nostri telefoni si stanno scambiando i dati anonimi. Riconducibili a nulla. Cioè... la mia fantasia sta già galoppando, chissà cosa stanno facendo i nostri telefoni. Esattamente, però diciamo nel momento in cui qualcuno di noi dovesse diventare positivo, l'altro viene avvisato. Ecco, allora, ma perché mi sono messa a parlare di mascherine? Cioè, poi lo sai che sono stato io, però diciamo però, che... ecco, poi ne hai parlato molto spesso in 2024, andate a recuperare il podcast perché le spiegazioni di Enrico sono perfette. Allora... ma perché ho parlato di mascherine? Perché De Luca ha detto mettete la mascherina per andare al mare. Ma ti ricordi quando era tutto diverso? E guarda, entriamo in atmosfera con questa canzone. Quello che cerchi è un cuore da amare, un piccolo cuore per farti sognare. Un giorno d'estate un cuore di panna troverai. Questa. Ci mette un po' a arrivare. Ma perché? Sai cosa succedeva nel frattempo? Uh-huh. C'erano tutti i ragazzi che andavano al mare, mangiavano il gelato e si davano i morsi allo stesso gelato. Cosa che adesso sarebbe da evitare. Impossibile. Ma come facciamo? Io è da mesi che dico questa cosa e tutti mi prendono in giro, e gli art director mi prendono in giro, i copywriter mi prendono in giro. Dico, ma quest'estate come faremo a fare le pubblicità del gelato? Come si fanno le pubblicità in questo periodo? Non è facile. Abbiamo un ospite davvero importante, è stato il presidente dell'Associazione dei Creativi Italiani ADC, Massimo Guastini. Buonasera, benvenuto a Radio Tube. Ciao, buonasera. Massimo, buonasera del ADC Art Directors Club Italiano, fammelo dire bene. Quando sentiamo la pubblicità del cuore di panna ci viene subito la nostalgia. Sì, appena mangiato, peraltro. Il cuore di panna, bene. Massimo, ti stiamo perdendo. L'abbiamo perso. Allora, ti stiamo perdendo, è colpa del cuore di panna. Allora, facciamo una cosa, proviamo a richiamarlo, sì. Effettivamente... Diciamo che di canzoni che sono passate alla storia della pubblicità non ce ne sono tantissime, forse una delle ultime è Fileni Bio, no? Ah sì, che le cantavamo in redazione, sì. Che quando partiva... No, ce ne sono alcune d'estate, riso ma senza lattosio, canto, sì. Le gallette e gli snecchini, no, ce ne sono che io canto. Abbiamo richiamato Massimo Guastini, non lo troviamo perché probabilmente è in un punto un po' difficile da trovare. Ma intanto vi faccio sentire un altro spot che in questi giorni, questo invece è di oggi, che sta andando in onda in questi giorni. Siamo alle solite, gli amici saranno puntualissimi e noi, come sempre, in ritardo con il pranzo. Ecco, che vi avevo detto? Non ci vediamo da tanto, ma non è cambiato niente. Anzi, una cosa è cambiata. Io e mia sorella non abbiamo niente in comune. Consiglio, penne per Giusilli. Io amo la tranquillità. Io sono un po' pazzerella. Perfetto. Ragazzi, solo una cosa ci mette d'accordo. La pasta. Allora, non diciamo la marca, ma tanto l'avete capito tutti, è una delle, forse la pasta più famosa nella pubblicità italiana. Questi sono i nuovi spot. Quella con la B? Quella con la B, sì. Sono i nuovi spot girati da tre registi. Questi sono i primi due, cioè Sergio Rubini e Daniele Lucchetti, con le loro famiglie vere, e poi arriverà anche Alessandro Genovesi. Cioè il concetto del... ripartiamo dalla famiglia, okay. Ecco, insomma, una cosa un po' cosa un po'... Diciamo che quella marca lì con la B ha sempre puntato molto sulla famiglia italiana e la pasta nelle case degli italiani. Quindi allora, è in linea. Abbiamo recuperato Massimo Guastini. Massimo, ciao, eccoci. Eccoci al cuore di panna. Eravamo al cuore di panna. Ha detto che è la pasta asciutta. Siamo passati alla pasta asciutta. Andiamo, sì, perché ritroso. Diciamo che il cuore di panna era come eravamo prima. E forse la pasta asciutta è come siamo adesso? No, forse siamo più alla frutta che alla pasta asciutta. Comunque sì, dai. Capito l'art director? Non siamo al gelato, insomma, è vero. Anche perché appunto, come dicevi tu, non possiamo più mangiarlo tutti insieme, no? Non c'è più questa promiscuità del mangiare il cornetto della marca. Non è possibile. Infatti la pubblicità in questo periodo, cioè per gli art director è stata, e per i copy è stata una sfida grossa in questo periodo, fare la pubblicità e riuscire a incontrare le persone in un momento assolutamente di difficile lettura in generale. Ma allora in realtà sarebbe come sempre quando c'è un periodo di grande cambiamento, di casino, forse anche sarebbe anche un periodo di opportunità. Quello di provare, se si ascolta il rumore delle persone, è quello di provare dei linguaggi diversi, è un modo di scrivere per la rete diversa. Chiaramente all'inizio vedere i consueti spot, quei birignao di dialoghi improbabili, mentre eravamo tutti chiusi in casa, è sembrato un po' inverosimile. Poi c'è stata la fase in cui tutte le aziende usavano lo stesso tono accorato e anche questo è sembrato inverosimile. Adesso spero che lasciano la possibilità ai miei colleghi creativi e agli altri giovani di fare creativi, così da avere magari un modo di parlare agli utenti più attuale, più contemporaneo. Enrico, effettivamente ogni tanto ne parlavamo anche in redazione, queste pubblicità che erano tutte ripartiamo tutti insieme, l'Italia, ce la faremo. Sì, che... sì, un po' copiate, sì. Abbiamo visto anche l'inverosimile, abbiamo visto macchine lussuose tedesche dipinte di bianco, verde, rosso e dire che c'è delle cose, che da sempre quel marchio sportivo del lusso a cuore i poveri, paradossali abbiamo visto. Certo, purtroppo non è vero il contrario, perché sono i poveri che non se lo possono permettere. Allora, adesso facciamo una breve pausa e poi ti voglio chiedere di un libro un po' particolare questi giorni è apparso e è davvero un consiglio per gli acquisti. Faccio proprio il consiglio per gli acquisti. Sì. Tra pochissimo, pausa per la viabilità e poi saremo ancora insieme. Hai presente quel bel retro che abbiamo visto a 29,99? Quel furto? Sì, l'ho trovato su questo sito, 99 centesimi. Come si chiama il sito? www.nontiavevaniente.com. Prendi due, anche io lo voglio, 9,90 per 3 caffè e 16 cornetti, ma siamo pazzi! Cosa cerchi per il tuo business? Soluzioni performanti, il massimo dell'efficienza. E poi dinamismo, autonomia, sostenibilità. Perché non pretendere tutto ciò anche dalla tua auto? Con la nuova BMW Serie 3 Touring hai le migliori performance e la più emozionante dinamica di guida per far viaggiare il tuo business ancora più velocemente. Scopri le nostre soluzioni flessibili su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW. YouTube Social Network. Eccoci ancora insieme, sempre con Enrico Pagliarini. Che bello, ma perché non facciamo così un po' di puntate insieme ogni tanto? Oppure andiamo avanti fino alle 21. Carmelo, sì, cosa dai. Dici? No? Non è d'accordo, Carmelo? No, perché no? Ci sono già delle altre trasmissioni. Lui è rigoroso col palinsesto. Sì, ma potremmo fare anche tipo delle cose. Così a un certo punto noi siamo in radio e ci prendiamo possesso. Anche in uno studio di fianco. Prendiamo tra di noi. E abbiamo sempre al telefono Massimo Guastini, che è stato presidente dell'Art Director Club Italiano. Massimo, rieccoci. Eccomi, ciao. Allora, tu sei una delle firme dei 70 racconti che sono sotto l'ombrello di questo libro che è assolutamente da comprare sulla piattaforma Amazon Kindle Direct Publishing. Il titolo è COVID-19 creativi in quarantena. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al fondo del Dipartimento della Protezione Civile per sostenere le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al coronavirus. Massimo, cosa sono questi racconti che avete scritto? Ma per citare De André, direi che anche dall'età può nascere un fiore, quindi partendo da un periodo di costrizione, da un'idea di Marco Faccio, l'Associazione Italiana dei Copywriter ha chiesto a tutti i copywriter pubblicitari d'Italia di scrivere qualcosa, un pensiero, un aforismo, un racconto, e di mandarlo per acquistare l'altro gruppo che selezionava, per poi pubblicare questo libro, di cui ricavato, come hai ricordato tu, andrà alle famiglie degli operatori sanitari morti nella lotta al Covid-19. Quindi ciascuno di noi ha mandato il suo contributo scritto e sono stati oltre 200 i lavori mandati, ne hanno scelti una settantina, tra cui spicca, devo citarlo perché è il più importante copywriter d'Italia, il giovane Roberto Tolino, che ha scritto una riga gareggiando con Quasimodo. Adesso sono molto curiosa, ma non si può spoilerare. Esatto, non posso spoilerare. No, perché va comprato. Pasquale Barbella, forse il più grande copywriter di sempre, c'è Diego Fontana, c'è Paola Campanelli, ci sono tantissimi autori. Devo dire che di solito noi pensiamo colpevolmente, ma anche con un po' di ironia, al pubblicitario un po' cinico, no? Un po' disposto a usare la sua creatività solo per la marca, per il cliente. Forse è un po' cinematografica questa idea, dai, anche un po' Mad Men. Invece questa volta avete lasciato la vostra creatività libera e anche per un ottimo scopo, perché anche i pubblicitari hanno un'anima. Sì, forse anche i pubblicitari hanno un'anima, anche se a volte la vendono al commercio, però non è questo il caso, quindi questa è sicuramente un'opera, ripeto, come citando De André, dall'etame può nascere un fiore. E questa è una causa buona. Allora, ci sono dei bei racconti. No, infatti, vi ricordo il titolo, andate su Amazon, COVID-19, quindi come Covid, ma come copywriter creativi in quarantena. Massimo, prima di salutarti, però, abbiamo ancora delle domande sulla pubblicità, in particolare Enrico ha un po' di curiosità. Certo. Sì, la prima è: a me sembra, però chiedo conferma a te, che negli ultimi anni la creatività sia un po' crollata. È vero o non è vero? Se è vero è perché si investe poco? Perché immagino anche che se ti danno un budget da poco, concluderai poco. Sì, anche se in verità secondo me non è solo una questione di soldi, però questo è il mio parere personale. Cioè, la creatività significa trovare un nuovo ordine utile, quindi tenendo conto dei paletti che ho, che siano quindi soldi, nonché cose da dire, cose da non dire, fare un buon lavoro. Quindi che i soldi siano pochi o tanti, avere più soldi è sicuramente un vantaggio, ma comunque è possibile fare del buon lavoro anche con pochi soldi. Però sì, è vero quello che dici, la creatività media è decaduta da diversi anni, questo perché è decaduto un po' il ruolo di chi crea i contenuti, è decaduto, cioè alcuni anni la creatività è in mano a holding, che poco ha a che fare con la conoscenza di quelli che sono i meccanismi con cui si costruiscono i contenuti. Quindi si parla tanto di storytelling, così come si parla tanto di sesso, di solito quando non si fa poco. Interessante. Un'ultima domanda flash. Allora, mi ha un po' colpito la pubblicità di Divani e Divani, che mi sembra, Poltrone e Sofà, scusami, mi confondo tra Poltrone e Sofà, che era famosa perché c'erano i lavoratori simpatici romagnoli. Sì, Poltrone. Perfetto. Sì. Adesso sono diventati seri. Perché? Cioè, figlia del Covid, questa scelta? Allora, non lo so, nel senso che non conosco nessuno che ha lavorato a questo, però sì, è possibile che la tua differenza, no, sia corretta, quindi hanno forse pensato che non fosse del tutto opportuno in questo momento utilizzare quei toni di voce. Però ripeto, non ci ha lavorato, quindi non sono a corrente. Però noi li rivogliamo. Eh? Ah, tu rivuoi gli artigiani? Sì. Okay. Io voglio gli artigiani. Volete gli artigiani della qualità? Sì, ecco, bravo. Beh, ragazzi, perché la verità è che la pubblicità fa parte della nostra vita di tutti i giorni. Sì, sì. Cioè non... E poi, secondo me, tra qualche anno, quando rivedremo le pubblicità nate in questo periodo, ci torneranno in mente un sacco di cose. Sì, cioè, sì. Non c'entra da fare. Come la Madeleine di Proust. Ma certo, eh? l'abbiamo avuta col cuore di panna. Sì, sì. No, il punto è che non so se c'è l'omologo oggi. Cioè, non so se i quindicenni tra 20 anni, quindi i 35 anni di domani, troveranno uno spot con... anche perché difficilmente oggi si spende in un singolo spot tanto quanto veniva speso allora. Sì, anche perché poi fare queste canzoncine, cioè c'erano fior di autori, non erano cose da poco. Fior di registi, fior di direttore della fotografia, cioè, a me è capitato di lavorare anche con dei premi Oscar. Che meraviglia. Quindi avevamo veramente accesso, nei nostri budget era possibile lavorare con i migliori. Quindi hai sentito Enrico, ha risposto a tutte le tue... Speriamo che questi tempi tornano. In effetti io ogni tanto non è tempo perso, vado qui negli archivi della radio, se ci sono degli spot belli me li riascolto. Sì, anch'io. Oppure a vedere spot, quelli del Super Bowl me li sono visti tante volte. Vabbè, poi io ti ho anche trascinato la notte dei Publivori. Sì. Allora se mi mandi poi un'email, io ti manderò magari una WeTransfer con, non so, un centinaio degli spazi che ho ottenuto e che amo di più. Guarda, te la mandiamo subito. Mi mandi su WhatsApp e la vostra tua email. Adesso sono via per una settimana. Quando torno ci preparo la ci rendi felici. Grazie a Massimo Guastini. Fammi ricordare il titolo: COVID-19, creativi in quarantena. Andate su Amazon, lo comprate e fate anche del bene. Grazie Massimo, a presto. Grazie, ciao. Allora, noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ai noi. Già c'è finito? Qualcuno che dice, ma no, andate avanti fino alle 21, poi off topic e caccia. No, non si può, non possiamo. Anche Filippo Origi non è d'accordissimo su questa idea. No, infatti, dice, ma siete matti, non prima non poi, prima o poi, caro Filippo, batteremo il record, non so a quanto sono arrivati. Sapete che c'è il record di durata della diretta? Il mio record è 9 ore. Sì, ma no, ci sono dei... No, però, il mio record è 9 ore, era quel giorno del blackout in Italia, ti ricordi? Blackout? Ecco, io sono stata... Il mio record è 9 ore, un non è tanto. Un giorno faremo il record. Intanto mi è scappato un che meraviglia. Non dicevo che meraviglia da puntate. Sul premio Oscar Zac mi è scappato un che meraviglia. È il momento dei saluti. Devo ringraziare tantissimo Alessandro Schirano, che mi ha dato una mano, come al solito fondamentale, a chiudere la puntata. Edoardo Lavezzari, che sta per andare al mare, non va in vacanza da un sacco di tempo. Starà in fila 5 ore. No, dai! No, va lontano. Carmelo Lauricella, in regia, Enrico Pagliarini. Dobbiamo fare un sacco di diretta insieme, io e te Enrico. Noi ci risentiamo domani mattina con Radio Tele Intervista e poi in diretta la prossima settimana. Ciao. Promettimi che per me ci sarai sempre. Sempre. Anche durante il giorno? Sempre. Anche nel cuore della notte? Sempre. Anche durante un'apocalisse zombie? Sempre. Gabriele ha visualizzato e non risponde. Forse in aereo o in galleria. Una galleria lunghissima, adesso le fanno tutte lunghe le gallerie. Rapito? Gli alieni? È caduto in un dirupo? Sì, è caduto in un dirupo a Milano. È stato travolto da una cascata, me lo sento. Chissà cosa sta facendo di così importante da non poter rispondere. Ma è una serie bellissima. Ma rispondo dopo. Ma non dovevi rispondere al messaggio? Ma rispondo dopo, tanto non si preoccupa. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.